Perfetto, e allora a questo punto possiamo passare la parola a Marco Veruggio dell'associazione Punto Critico per la presentazione del libro. Ma intanto io voglio ringraziare il centro di documentazione Martignetti per averci permesso di presentare questo testo qui a Roma e anche di parlare di un argomento che purtroppo, diciamo, sembrava un po', come dire, sopito in questi ultimi mesi, mentre da qualche giorno è tornato tragicamente di attualità. La compagna prima, a proposito di Ernest Mandel, raccontava del fatto che l'impegno politico dell'autore di questo testo, prima di essere internato in un lager nazista in quanto comunista ed ebreo, iniziò proprio in Belgio durante l'occupazione tedesca, pubblicando insieme al padre, nel retro di una finta agenzia di assicurazioni, questo bollettino clandestino in lingua tedesca intitolato Das freie Wort, la parola libera, e rivolto ai soldati tedeschi che occupavano il Belgio, che faceva opera di diffusione delle idee socialiste e della propaganda antinazista ed ebbe un tale successo che a un certo punto due soldati dell'esercito tedesco contattarono Mandel per mettersi a disposizione per diffondere clandestinamente questo bollettino che arrivò a tirare fino a 4.000 copie e i cui pacchi venivano lanciati nel retro delle bettole dei locali in cui i soldati andavano a bere finito il loro turno e in modo che avessero la possibilità, diciamo, lontano da occhi indiscreti di andare, diciamo, a prelevare le loro copie e poterle leggere. Dopo la guerra, come diceva la compagna, Mandel non è soltanto un dirigente della Quarta Internazionale, quindi un esponente del movimento trotskista, un marxista che combatte contro la degenerazione staliniana, dell'Unione Sovietica. Ma è anche un intellettuale poliedrico, è noto per le sue opere economiche, il Trattato di economia marxista, ma soprattutto un testo scritto in francese, La troisième âge du capitalisme, la terza età del capitalismo, in cui, riprendendo le teorie di un economista russo, Kondratiev, rielabora, diciamo, la teoria delle onde lunghe del capitalismo, quindi dei cicli, diciamo, del capitalismo, ma è anche appunto un intellettuale poliedrico i cui interessi spaziano in ogni campo del sapere e ad esempio, se vi capita, vi consiglio, perché è stato tradotto in italiano dal Saggiatore, di leggervi La storia sociale del romanzo poliziesco, che è un testo, diciamo, molto interessante e che dimostra appunto la versatilità, diciamo, di questo intellettuale marxista. Due anni fa noi abbiamo deciso di ripubblicare, anzi di pubblicare per la prima volta in traduzione italiana un testo che era già stato pubblicato nella seconda metà degli anni Ottanta in inglese, poi tradotto in tedesco, in francese e di recente in spagnolo, perché, come ha scritto Piero Aquilino nell'introduzione, avevamo chiaro che il tema della guerra sarebbe diventato un tema per noi e per le nuove generazioni. Anzi, nella prefazione Piero scrive il tema, anche se chiaramente non ci saremmo mai potuti aspettare che 3 mesi, neanche 3 mesi dopo la pubblicazione di questo testo, che è uscito, diciamo, nel dicembre del 2021, l'aggressione russa all'Ucraina avrebbe scatenato la guerra a cui ancora assistiamo e con le conseguenze che vediamo. Ma proprio perché pensavamo che i libri non bastano, ma che senza libri e senza conoscenza non si va da nessuna parte, abbiamo scelto di tradurre questo testo con una forte impronta metodologica perché ci sembrava che avesse due pregi. che già, diciamo, in qualche modo la compagna nella sua introduzione accennava. Uno è che ci dà una lettura materialistica del fenomeno bellico. Le guerre, e credo che mai come oggi sia chiaro, che ne dica chi le fa, non si fanno mai per motivazioni ideali, ma riflettono un intreccio di interessi materiali, plurimi, contraddittori, che si sommano generalmente in forma lineare, e che è necessario, diciamo, che è una matassa che è necessario sbrogliare per cercare di capire, no, qual è appunto la natura di questi conflitti, quali sono le cause profonde, non le cause occasionali delle guerre. E in secondo luogo, come diceva la compagna, perché ci dà uno sguardo complessivo, getta uno sguardo complessivo sul secondo conflitto mondiale, superando una storiografia soprattutto occidentale che vede nella seconda guerra mondiale un conflitto sostanzialmente europeo di cui il teatro Asia-Pacifico è un'appendice marginale. Quello che emerge dalla lettura di questo testo, e che tanto più oggi, diciamo, esplode, diciamo, nella sua drammaticità, è che una guerra mondiale non è tale solo perché viene combattuta su più continenti, ma perché appunto quell'intreccio di relazioni materiali di cui è espressione finisce per coinvolgere non soltanto i paesi belligeranti, ma, diciamo, l'intero globo. Mandella accenna ad esempio al fatto che ragionando sulle prospettive future della guerra, sia gli Stati Uniti sia la Germania nazista hanno già chiaro che per poter proteggere i confini della propria zona di influenza dovranno occupare territori lontanissimi dal teatro di combattimento, come le Canarie, le Isole Azzore e il Capoverde. E questo ci ricorda ad esempio quello che è successo pochi mesi fa, prima dell'estate, quando gli Stati Uniti hanno detto che se la Cina avesse aperto una base militare come concordato nelle isole Salomone, questo sarebbe stato, diciamo, un atto diplomaticamente inaccettabile per gli Stati Uniti. Mandel cerca di analizzare questo fenomeno in termini scientifici. Se volessimo rititolare questo libro, oggi potremmo intitolarlo Come si analizza scientificamente una guerra. E lo fa in un modo che è caratteristico, perché questo testo, chi avrà voglia di leggerlo lo scoprirà, è diviso in due parti. Una prima parte che ha un'impronta, come dicevo, fortemente metodologica, in cui Mandel analizza il fenomeno della guerra scomponendolo in quelle che sono, diciamo, le sue tessere costitutive, quindi la strategia militare, l'ideologia che muove i paesi belligeranti, lo sviluppo economico, lo sviluppo scientifico e l'impatto che lo sviluppo scientifico ha sugli armamenti, sullo sviluppo di nuovi armamenti e quindi anche sul modo di combattere la guerra, la logistica, la scienza dell'amministrazione, perché la seconda guerra mondiale è una guerra industriale sotto tutti i punti di vista. A me è capitato recentemente, ad esempio, cioè un paio di anni fa, di visitare i lager di Auschwitz e di Dachau, mi pare, Birkenau, e quello che mi ha colpito in quell'occasione è stata la dimensione industriale del massacro. Quei campi di concentramento sono campi industriali di lavoro e di massacro su scala industriale. E nella seconda parte Mandel invece ricompone il mosaico ripercorrendo gli eventi della guerra mondiale, dall'invasione della Polonia nel 1939 fino a Hiroshima e Nagasaki, alla luce di quello che ha scritto nella prima parte e preannunciando in qualche modo già l'avvento della guerra fervente. Dicevo prima un testo scientifico. Che cosa significa? Significa che è una lettura scevra da ogni velleità moralistica o giuridica, in cui L'aspetto fondamentale non è, come nel dibattito stucchevole a cui assistiamo oggi, stabilire chi è il colpevole o chi ha schiacciato per prima il grilletto, ma ricercare le cause materiali della guerra, le spinte oggettive che precipitano un intero pianeta verso la guerra alla luce della teoria che la compagna citava dell'imperialismo, diciamo sviluppata ai primi del secolo da uno storico borghese come Hobson e poi ripresa diciamo negli anni successivi nel testo famoso di Lenin. E che cosa significa questo? Significa che non solo l'avvento del nazismo o la ferocia dell'impero giapponese che innescano la guerra mondiale, ma piuttosto sono la Germania e il Giappone che, risucchiati da processi materiali verso il baratro della guerra, selezionano quelli che per loro era la miglior classe dirigente per guidarli in quell'impresa. Esattamente come 25 anni prima, diciamo, i colpi di pistola di Gavrilo Princip all'arciduca Ferdinando non avrebbero innescato il rogo che bruciò l'intera Europa se le fascine non fossero state accumulate da tutte le principali potenze capitalistiche nei lunghi decenni precedenti. E quali sono le cause che, come dicevo prima, risucchiano la Germania e il Giappone nel vortice della guerra? Dal punto di vista della Germania, una crisi economica devastante, che ha radici anche diciamo, nella precedente sconfitta diciamo, nel trattato di Versailles, diciamo, a cui la Germania sconfitta diciamo, viene sottoposta dalle potenti vincitrici della precedente guerra mondiale, con il debito che esplode, le esportazioni della Germania che implodono e i tassi di sfruttamento della classe operaia che sono talmente elevati che non consentono di andare oltre e quindi di incrementare diciamo l'estrazione di plusvalore, i profitti per i capitalisti tedeschi. E questo traina da una parte il riarmo, dall'altra la spinta verso l'espansione della potenza tedesca e del suo controllo su altri paesi alla ricerca di mercati di sbocco per le proprie merci, ma soprattutto di serbatoi di materie prime, tra cui la forza lavoro e di cui, come dicevo prima, i campi di concentramento sono, come dire, la testimonianza più efferata, perché spesso, diciamo, questa cosa non si ricorda, ma i lager, prima di essere dei campi di concentramento e di sterminio, furono dei campi di lavoro forzato nelle grandi fabbriche del capitalismo tedesco. I Krupp ebbero, diciamo, un beneficio miliardario dalla possibilità di utilizzare forza lavoro sostanzialmente a costo zero, prelevandola dai campi di concentramento nazisti. I Krupp che, diciamo, furono il braccio armato del nazismo e che prima ancora furono il braccio armato, diciamo, della potenza prussiana, anche se contemporaneamente non disdegnavano, diciamo, di vendere spolette per i proiettili d'artiglieria britannici, per cui, come denunciò Karl Liebknecht al Reichstag, per ogni proiettile sparato dai britannici contro le truppe tedesche, i Krupp incassavano una royalty e, diciamo, questo fu uno degli argomenti di, come dire, di trattativa dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, cioè si dovettero mettere d'accordo sulla cifra, ma alla fine ci arrivarono, a dimostrazione che diciamo, i padroni sono più internazionalisti di quanto diano a vedere. E il Giappone è un paese che si trova a un bivio negli anni 30. O rimane un piccolo impero, diciamo, relegato su un arcipelago, oppure aspira a diventare una potenza regionale e addirittura una potenza mondiale, però per fare queste cose ha bisogno di sviluppare la propria industria, il proprio commercio, ha bisogno delle risorse del sottosuolo della Manciuria, ha bisogno di rotte commerciali sul continente, ad esempio per esportare i propri prodotti tessili verso la Birmania e l'India, e ha bisogno di avamposti rispettivamente, diciamo, sulla terraferma, sul continente e sulle isole circostanti, per proteggersi da eventuali minacce provenienti dalla Russia per un verso e dagli Stati Uniti dall'altro. E questo determina un dibattito nell'establishment, nelle classi dominanti giapponesi, ad esempio relativo alla stazza dell'esercito che devono armare e quindi anche al tipo di guerra che dovranno combattere, una lunga guerra di attrito oppure una guerra breve, diciamo, che si decide rapidamente attraverso uno scontro risolutivo. Di questo discute, diciamo, la borghesia e quello che resta dell'aristocrazia, diciamo, giapponese in quegli anni. Ma è la borghesia, la borghesia capitalistica, quella che preme di più per la proiezione esterna, perché l'aristocrazia è ancora legata, come dire, alla vecchia casta dei samurai, quindi, diciamo, a una concezione abbastanza artigianale del conflitto bellico. Quindi in questi termini Mandel analizza il conflitto mondiale. E lo analizza con queste parole, scrive: il secondo atto della tragedia imperialista si svolse quindi in base alle logiche interne del sistema capitalistico mondiale. Ancora una volta la posta in gioco era la supremazia internazionale di una potenza imperialista, conquistata e mantenuta attraverso una combinazione attiva di conquista o di minaccia militare e di dominio o di saccheggio economico. L'esatto dosaggio di questi strumenti sarebbe dipeso dalla forza o debolezza relativa di ciascun contendente, a sua volta originata da fattori interni, quali il suo livello di sviluppo economico e le caratteristiche delle sue istituzioni politiche. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale queste potenze erano gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone e la Gran Bretagna, mentre la Francia e l'Italia, mancando della forza necessaria per agire da protagonisti, avevano un ruolo di alleati comprimari. E siccome la retorica dell'aggressore e dell'aggredito, o la retorica di chi dice la guerra non è colpa mia ma è sempre colpa degli altri, non è una novità, Mandel già negli anni Ottanta risponde, parlando della Seconda Guerra Mondiale, a questa obiezione e dice: si potrebbe obiettare che questa analisi degli interessi in campo nella Seconda Guerra Mondiale è troppo generica e non rispecchia il reale corso degli avvenimenti, che rivelano aspirazioni molto più limitate da parte delle potenze belligeranti, che si dovrebbero distinguere con più precisione le cause e gli effetti e distinguere gli aggressori da quegli stati che invece entrarono in guerra per difendersi. In fondo, la Seconda Guerra Mondiale non fu forse una semplice successione di scontri regionali, le cui cause poggiarono sulle specificità delle politiche tedesche e giapponesi, che a loro volta determinarono uno strappo in quello che altrimenti sarebbe stato un pacifico sviluppo dell'economia mondiale verso ciò che Kautsky aveva definito ultraimperialismo? Da questo punto di vista, l'offensiva giapponese si sarebbe limitata all'obiettivo di creare una zona di influenza nell'est asiatico e nel Pacifico, e l'espansionismo tedesco soltanto a una parte dell'Europa, dell'Africa del Nord e del Medio Oriente. In questo modo la volontà della borghesia britannica di conservare i propri possedimenti imperiali può essere sollevata dalle proprie responsabilità verso il militarismo tedesco e giapponese, mentre le mire statunitensi rispetto all'Asia e all'Africa, per non parlare dell'Europa, possono essere viste sostanzialmente in modo più modesto e benigno della politica di aggressione armata portata avanti dal fascismo tedesco e giapponese. E questo ci proietta evidentemente a parlare dell'oggi, perché analizzare quello che sta succedendo, per analizzare quello che sta succedendo, la lezione di metodo di Mandel è preziosa. Cito un esempio. Uno degli aspetti su cui Anton Giulio Mannoni e Piero Aquilino, cioè il traduttore e il curatore di questo volume, hanno dedicato maggiore attenzione è stata la traduzione e l'inserimento di decine di note sugli aspetti militari di questo testo e in particolare su ciò che riguarda gli armamenti, perché conoscere l'impatto dell'innovazione tecnologica sugli armamenti e dunque sul modo in cui si fa concretamente la guerra, quella che gli americani chiamano il warfare, che è cosa diversa dalla semplice war, è fondamentale per capirne la natura. Oggi, per citare un esempio, i fautori, diciamo, del sostegno occidentale al nazionalismo del governo ucraino presentano questa guerra come un conflitto limitato tra un piccolo paese oppresso e, diciamo, una grande potenza. Qualcuno dice, parla addirittura di un paese semicoloniale, purtroppo le dicono anche, diciamo, sedicenti marxisti queste cose, e, contro la grande potenza imperiale russa, in cui sostanzialmente la posta in gioco è l'indipendenza dell'Ucraina e il suo diritto all'autodeterminazione nazionale. E a riprova di questa tesi, per cui sostanzialmente gli altri paesi, le grandi potenze, sono, diciamo, più come ultras che seguono una partita di calcio dagli spalti dello stadio, a riprova di questa tesi ci fanno osservare che sul campo di battaglia in realtà combattono soltanto l'esercito russo e l'esercito ucraino. Ora, al di là diciamo, del fatto che, diciamo, ci sono decine di miliardi di dollari di armamenti, la presenza di addestratori, consiglieri militari, di truppe, mercenari, multinazionali, però questa tesi è la dimostrazione che chi, anche, diciamo, da posizioni formalmente di estrema sinistra, analizza questa guerra, non sa come si combatte una guerra oggi. Perché oggi, per colpire un bersaglio nemico, è necessario essere inseriti in una ragnatela di sensori digitali in grado di tracciare le posizioni e i mezzi nemici e di trasmettere in tempo reale le coordinate ai pezzi di artiglieria, che è un'infrastruttura che è a disposizione soltanto delle grandi potenze. Stati Uniti, Europa, Cina, Russia, Israele, e quindi oggi l'Ucraina, se non avesse al proprio servizio, diciamo, questo tipo di infrastruttura, non potrebbe sparare un colpo. Rivista Italiana Difesa a maggio ha pubblicato due interessanti articoli in cui ci sono i dati relativi ai primi mesi di combattimento, da cui risulta, ad esempio, che la stragrande maggioranza dei carri armati russi sono stati colpiti dall'artiglieria ucraina, non dai javelin che ci hanno fatto vedere, che sono quei, diciamo, per utilizzare un termine diciamo approssimativo, bazooka che anche il singolo resistente può utilizzare, inquadra il carro armato, spara e il proiettile viene guidato, diciamo, da un sensore che è in grado di ricercare il calore e colpisce il carro armato. No, sono stati colpiti da pezzi di artiglieria, e questo significa che quei pezzi di artiglieria hanno avuto le coordinate del carro armato nemico da, appunto, un'infrastruttura di cui fanno parte, ad esempio, gli aerei da ricognizione svedesi, perché la Svezia non fa parte della NATO, ma gli aerei da ricognizione svedesi partecipano alle operazioni militari. Gli aerei da ricognizione della NATO che si levano dagli aeroporti militari, dalle basi militari NATO in Italia. I satelliti italiani, ma addirittura i satelliti di Starlink, cioè della compagnia privata di Elon Musk, che ha concluso un accordo con lo Stato ucraino per fornire all'esercito ucraino e anche agli apparati civili ucraini, diciamo, la struttura che gli serve per mantenere la comunicazione, dato che i russi, quando sono entrati in Ucraina, avevano preventivamente, come dire, messo fuori uso tutti gli apparati di cui l'Ucraina aveva bisogno, danneggiando anche soggetti terzi. Ad esempio, c'è una delle principali compagnie energetiche tedesche che ha perso, diciamo, i collegamenti da remoto con circa 3.500 turbine eoliche che si trovano sparse, diciamo, in tutta l'Europa orientale, che a causa, diciamo, di questa iniziativa russa in qualche modo sono rimaste parzialmente isolate. Ma non solo, Mandel dice nel libro che se la prima guerra mondiale è stata la guerra, dal punto di vista logistico, è stata la guerra della ferrovia, la seconda guerra mondiale è stata la guerra delle truppe corazzate e motorizzate. Bene, la guerra in Ucraina è la guerra delle truppe corazzate e motorizzate a cui si affiancano i droni, cioè dei velivoli senza pilota che possono essere comandati diciamo, tranquillamente da un ufficio del Nevada, negli Stati Uniti. La cinematografia statunitense ha prodotto anche alcuni film molto interessanti, penso a Good Kill o al Diritto di uccidere, dove, diciamo, un pilota di droni, come un qualsiasi impiegato, la mattina entra in ufficio alle 8, timbra il cartellino, poi va a fare la pausa pranzo e il pomeriggio alle 5 smonta e torna a casa, diciamo, ovviamente con il peso, diciamo, di stress, di ossessione, di cupezza che porta, diciamo, combattere sia pure da una scrivania. E questi sono gli aspetti, ovviamente, che in un'analisi scientifica, materialistica della guerra oggi è necessario integrare. Se oggi Mandel scrivesse, diciamo, no, un nuovo trattato sulla guerra, probabilmente a quegli aspetti, diciamo, metodologici che elencavo all'inizio, aggiungerebbe altri capitoli, uno sulla finanza, perché si fanno anche le guerre finanziarie, uno sulla comunicazione e sui social, uno su internet, perché la dottrina militare va avanti. E siccome spesso non ci sono scienziati, diciamo, di parte nostra, diciamo, che analizzano queste cose, lo fanno, diciamo, i militari. Alla fine degli anni 90, due ufficiali cinesi pubblicano un libro che è stato tradotto in italiano, che io vi consiglio di leggere perché è veramente formativo per capire il mondo in cui stiamo entrando e soprattutto il fenomeno bellico, che si intitola Guerra senza limiti. In questo libro spiegano come il confine tra guerra e pace, tra quelle che loro chiamano le operazioni militari non di guerra, quindi peacekeeping, peace enforcing, operazioni di polizia internazionale, e le operazioni di guerra non militari, ad esempio le sanzioni che oggi vediamo comminate contro la Russia, che non sono solo sanzioni economiche, ma investono addirittura lo sport, la cultura, il cinema, il teatro, la danza, o gli attacchi informatici da parte di hacker. L'anno scorso, a giugno, un hacker anonimo, di cui non si conosce, diciamo, la provenienza, ha cercato di avvelenare una parte della popolazione statunitense nella zona della Bay Area intorno a San Francisco, inserendosi nel software gestionale di una centrale di trattamento delle acque. L'operatore è riuscito, diciamo, ad accorgersene, a disinnescare questo tentativo, ma, diciamo, quello sarebbe stato un atto di guerra vero e proprio, no? Quindi il confine tra guerra e pace, tra militare e civile, addirittura tra pubblico e privato, no? Prima parlavo di Elon Musk, è sempre più labile. E gli autori di questo testo a un certo punto dicono: se un giovane ufficiale ci chiedesse oggi dov'è il campo di battaglia, risponderemo: il campo di battaglia è ovunque. E qui assistiamo al capovolgimento della massima di Clausewitz, perché diventa non più la guerra che è la prosecuzione della politica con altri mezzi, ma per certi versi è la politica che è la prosecuzione della guerra con altri mezzi. E questo ha, diciamo, poi un impatto, diciamo, sull'elaborazione della dottrina militare che va avanti e che oggi, diciamo, ha un terreno di sperimentazione, no, in Ucraina. Le teorie di Hoffman, americano, e poi quelle di Gerasimov, capo di Stato Maggiore, diciamo, di Putin nel 2013, no, sulla cosiddetta guerra ibrida, oggi trovano in Ucraina, appunto, un terreno di sperimentazione. Ma negli stessi giorni in cui usciva il nostro libro, Xiao Liang da solo pubblicava, o meglio usciva in Italia, diciamo, una raccolta di suoi scritti intitolata L'arco dell'impero, in cui ci dà alcuni elementi che sono estremamente interessanti per capire quello che sta succedendo oggi. Prima parlavo di logistica. Xiao Liang scrive: sebbene anche gli Stati Uniti diano importanza alla geopolitica, il modo in cui la usano e ne traggono profitto è diverso da quello di Russia e Cina. Gli Stati Uniti non controllano più la geopolitica in termini di logistica. Non essendo più una nazione manifatturiera, la logistica necessaria a portare determinate risorse negli Stati Uniti come materie prime e poi trasformarle in prodotti e manufatti da vendere, non è più il modo in cui gli Stati Uniti fanno i loro profitti. Sembra che sia gli Stati Uniti si sia la Russia stiano controllando gli snodi geopolitici solo su scala diversa, ma la differenza essenziale è che gli Stati Uniti controllano il capitale, mentre la Russia controlla la logistica, e quello che vale per la Russia oggi vale anche per la Cina. La contesa sull'Ucraina è iniziata così: capitali americani ed europei che cercavano, come dire, che si riversavano sull'Ucraina per influenzarne la politica da una parte, e dall'altra oleodotti e gasdotti russi, la logistica appunto, che pompavano gas e petrolio per stringersi, diciamo, come un cappio attorno, diciamo, ai governanti di Kiev. E tutto questo va avanti fino a quando quell'equilibrio precario non si rompe e dalle operazioni, diciamo, militari, non di guerra, si passa, diciamo, a un conflitto dispiegato. Nel 2014, prima, diciamo, con Euromaidan e poi lo scoppio della guerra nel Donbass, nei termini di una guerra, come si suol dire, a bassa intensità, e poi da febbraio, dando vita a quella che è la più grossa guerra convenzionale che si sia combattuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché scontri in campo aperto di decine, centinaia, migliaia di carri armati, come stiamo quelli a cui stiamo assistendo oggi, non si svolgevano più dal 1945. Ma il convitato di pietra è la Cina. E questo è il vero pericolo, ed è quello che rischia di precipitarci inesorabilmente verso una terza guerra mondiale. Questo ci riporta, e su questo voglio poi avviarmi alle conclusioni, alle conclusioni del libro di Mandel. Mandel chiude il libro con Hiroshima e Nagasaki e poi parlando della guerra fredda, e sostanzialmente ci dice che tra la seconda guerra mondiale e la guerra fredda non c'è una soluzione di continuità, capovolgendo una storiografia in particolare di parte occidentale che vuole invece in Eisenhower, il presidente pacifista, quello che chiude la seconda guerra mondiale, no? Perché vuole inaugurare un'era di pace, e Truman, il presidente militarista, che invece in qualche modo è quello che scatena la guerra fredda. Quello che ci spiega molto chiaramente, sulla base anche di dati oggettivi che ormai sono diciamo noti, è che Hiroshima e Nagasaki non vengono bombardate con una bomba nucleare per piegare la volontà di un Giappone che ormai era sostanzialmente sull'orlo della resa e che stava già discutendo di aprire un negoziato per arrendersi. Il bersaglio principale delle bombe nucleari è l'Unione Sovietica, e quindi come dire, è con Hiroshima e Nagasaki che in qualche modo si apre già la guerra fredda. Ma nel testo di Mandel, che come diceva la compagna, diciamo, viene scritto sostanzialmente alla vigilia della caduta del muro, e quindi alla vigilia della fine della guerra fredda, Mandel sostanzialmente ci fa capire già che anche la fine della guerra fredda, diciamo, non avrebbe cancellato la parola guerra dalla storia, e che sostanzialmente tutte le teorie, dall'ultraimperialismo di Kautsky fino alla fine della storia di Fukuyama, tutte le teorie che prevedono, diciamo, una lunga era di pace, di prosperità e di sviluppo, diciamo, in regime capitalistico, vengono, come dire, contraddette dai fatti. E Mandello scrive questo con parole molto chiare e devo dire anche molto toccanti, che ci danno un'indicazione anche sull'oggi. Scrive: la seconda guerra mondiale non ha risolto nessuno dei problemi strutturali del capitalismo. Il capitalismo in Occidente si è sviluppato e ha prosperato dal 1948 al 1968, ma al prezzo di crisi continue nel terzo mondo e dell'accumulo di materiale sempre più esplosivo in Europa occidentale, che sarebbe scoppiato nel 1968. La crisi dell'imperialismo non era stata risolta, e nemmeno quella dei rapporti di produzione capitalistici. La tregua non era servita per riparare la diga. Le crepe si stavano allargando. Attraverso di esse il fiume della rivoluzione avrebbe ricominciato a scorrere, esse ancora la migliore speranza, in effetti l'unica speranza, per evitare la terza guerra mondiale. E queste parole, e su questo veramente voglio chiudere, un po' sorprendentemente riecheggiano, mi sono tornate in mente, rileggendo un articolo che è stato scritto da un altro giornalista, un po' più anziano di Francesca Mannocchi, quindi, come dire, che ricorda, diciamo, una visione che probabilmente è influenzata anche dalla sua età anagrafica, che è Domenico Squirico, che a fine luglio ha scritto un articolo sulla Stampa di Torino, sul Giornale degli Agnelli, in cui dice questo: l'unica speranza che questo macello finisca, dunque, non è nelle abilità e nelle qualità dei leader dell'Est e dell'Ovest, regrediti a termini rozzi e primitivi, stupefacenti in un tempo e in un mondo reputati civili. Risiede semmai nella volontà rivoluzionaria di porvi fine di coloro che combattono, che vengono ogni ora, ogni giorno uccisi da una parte e dall'altra, ucraini e russi. Abbiamo bisogno tutti, e soprattutto noi europei, che questa guerra subiamo a un passo, di uno sciopero eversivo, rivoluzionario dei combattenti, che riproponga con successo quanto accaduto nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale. Dalle trincee in cui milioni di uomini ogni giorno sopportavano il contatto con la morte e ogni istinto di vita sotto i bombardamenti, la sporcizia, il furore omicida sembrava dover inaridire fino alla radice. Esplose, dilagò improvviso, irresistibile, universale, il grande sciopero della pace. In Russia fu subito rivoluzione. Negli altri paesi belligeranti, in Italia fu Caporetto, ci vollero i plotoni di esecuzione per domare la rivolta, ma non fu che una breve tregua, prima che il moto dilagasse un anno dopo come un fuoco in una pianura riarsa. La fine rivoluzionaria di questa guerra criminale avverrà quando i combattenti si ribelleranno insieme alla sofferenza. Sono loro che, gettando contemporaneamente i fucili, possono rompere il cerchio dei pregiudizi, degli interessi, dei simboli vani. Sono loro che, rifiutando di combattere, spazzeranno con il soffio del loro possente respiro di vittime, di sacrificati, il cerchio degli interessi che a Mosca e a Kiev non sono i loro. E Domenico Quirico si permette persino, diciamo, il lusso di criticare da sinistra Papa Francesco, dicendo: Papa Francesco, come il suo predecessore, che durante la Prima Guerra Mondiale invocò invano re e presidenti perché fermassero l'inutile strage, sbaglia i destinatari dei vibranti, sempre più sconsolati appelli alla pace. Non sono Putin e Zelensky o Biden che possono spezzare il cappio della guerra. Gli uomini di buona volontà a cui deve rivolgersi, scavalcando, ignorando i capi, sono gli uomini disperati, sporchi, esausti, straziati delle trincee, il popolo della guerra. E noi potremmo aggiungere: e i proletari, che in tutto il mondo subiscono i contraccolpi politici, economici e sociali di questo tragico conflitto. Ho voluto concludere così perché penso che in questi mesi in cui migliaia di proletari russi e ucraini vengono mandati allo sbaraglio contro il fuoco nemico come carne da macello, in uno spettacolo che non vedevamo in un modo così distinto e da vicino da decenni, il fatto che la parola d'ordine di quello che un tempo avremmo definito il disfattismo rivoluzionario si affaccia addirittura sulle colonne, diciamo, di un quotidiano della borghesia italiana come La Stampa, mi pare che, come dire, confermi la forza fattuale della battaglia, dell'impegno internazionalista dei marxisti come Ernest Mandela e anche di chi come noi oggi discute di questo libro non semplicemente per ricordare un testo e per ricordare Mandela, ma in qualche modo per attualizzare quell'impegno e per rimettere a disposizione anche degli strumenti analitici di una battaglia che io credo oggi sia più importante che mai. Grazie.